Si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Governo stesse riempiendo l'Italia di potenziali delinquenti, di potenziali stupratori, di potenziali spacciatori. Se uno scappa da una guerra deve essere accolto. Quelli che non scappano dalla guerra vanno rispediti a casa loro a calci nel sedere. Colpa non è né dei ragazzi che stanno qua e mangiano a sbaffo da 6 mesi, in minima parte dell'obbligatorio, la colpa è di un governo che sta alloggiando ad oggi più di 93.000 immigrati, nella maggior parte dei casi clandestini. Intanto ho sentito delle parole veramente cattive, veramente pericolose, veramente idiote. Questi sono tutti ragazzi molto bravi, molto bravi. Lavorano, prestano la loro opera volontariamente a fare dei lavori utili qui in Bormio. Addirittura alcuni si sono tassati per fare delle opere di beneficenza, questa è una cosa di 3-4 giorni fa. Venire a dire di stupri, di violenze, senza sapere le cose come stanno, il signor Salvini, e mi dispiace perché io ero un leghista della prima ora, ai tempi di Bossi e di Miglio, e quando ho saputo dei furti e delle ruberie che hanno fatto, mi sono tolto, non ho più votato. Vediamo, la Lega. Poi, è questo, che il signor Salvini lo sappia. Sorridono i monti. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Fino alle 20.30 con i vostri interventi all'800 24 00 24. E insomma, avete sentito la questione degli immigrati, non risparmia nemmeno la montagna, la polemica. Salvini è andato di fronte all'albergo Hotel Stella di Bormio per dire basta, è una follia, non possono stare qua. Ma non ho capito la questione, nel senso che dice prima gli italiani, questo discorso lo puoi fare con il governo dicendo dovete dare il posto agli italiani, ovvero dare dei sussidi per l'abitazione, ma non puoi andare da un albergatore, perché non è che il problema degli italiani è che ci sono pochi alberghi, cioè se un italiano vuole andare in albergo può andarci, se mai è un problema di soldi. Ci sono tanti posti dove danno fastidio perché stanno magari in centro città, si creano delle confusione, l'abbiamo visto, casino da tante parti, e credo che a Bormio almeno è un po' in periferia, no? Decentrato. Beh, o danno noia ai turisti. D'estate, esatto, Bormio diventa centralissimo, ma non è una questione secondo me di centro o di non centro, è quello che diceva, mi sembra, l'albergatore, la voce di prima, che diceva sono delle bravissime persone che lavorano pure. Comunque, e semplicemente lo Stato gli paga un posto dove dormire. Vuoi o non vuoi, il problema degli immigrati in Italia è sempre una questione dell'Europa. Abbastanza incredibile sino ad oggi, ma io anch'io colgo i segnali positivi, e Gentiloni li ha sottolineati, è che l'Europa abbia affrontato questa emergenza senza avere un piano. Andiamo alle elezioni con Casini, Alfano, Cicchitto e Verdini, o cerchiamo di rilanciare una prospettiva di centrosinistra? Da quel 41% i sondaggi ci danno al 30, quindi nel frattempo è successo qualcosa, diciamo, siamo persi per strada 2 milioni di elettori, ci sarà una ragione. Questo paese non è vero che per 20 anni c'è stato il berlusconismo e l'antiberlusconismo che si sono annullati a vicenda. Non è che io dico che bisogna ispirarsi al passato, ma neanche sputarci sopra per far finta di essere grandi, diciamo, una via di mezzo. E così ricominciamo anche con D'Alema, che è la minoranza PD che critica Renzi. Abbiamo perso 2 milioni di voti, chissà come mai, non possiamo allearci con Casini, Alfano alle prossime elezioni. Alcuni diciamo bellissimo, alcuni diciamo dannata. E questo è D'Alema. 800 24 00 24, D'Alema alla festa dell'unità qua di Milano. Oh, allora, la premessa stasera vi chiediamo, cari ascoltatori, è venerdì, ci rilassiamo anche un po', il lavoro dei vostri sogni. lavoro che vorreste. La premessa qual è? Esatto, è che ieri il ministro Poletti ha corretto i dati sulle assunzioni a tempo indeterminato. Prima sembravano 600 e rotti mila dall'inizio dell'anno, poi ha detto no, un momento, ci siamo sbagliati, sono circa la metà. 300.000. Ma insomma, noi abbiamo pensato, non importa tutto sommato, perché il contratto a tempo indeterminato, ci sono cose migliori. Per esempio, sentite la storia di questo ragazzo qua, è un blogger, si chiama Johnny Ward, credo che sia o americano o svedese, è riuscito a guadagnare $1,000,000 facendo che cosa? Viaggiando, recensioni, post, fotografie pubblicate sul suo blog, e ha fatto i soldi. Beh, che è una cosa che ultimamente avviene spesso, di persone che aprono un blog e poi iniziano a fare, non so, le fashion blogger, e alcune, ricordiamolo, sono in tantissime che ci provano, e poi alcune diventano proprio delle punte e guadagnano delle cifre importanti. Però questo vuol dire che ci sono lavori talmente belli che uno potrebbe mollare anche un contratto a tempo indeterminato per andare a fare una cosa così. Per esempio, che ne so, assaggiatore di uova di Pasqua. Bello. Cioè, tu dici che per andare a fare il lavoro dei propri sogni, perché questo ragazzo, sì, questo blogger, quello che lui afferma nel suo stesso blog, dice: io in alcune mattine mi sveglio la mattina in un posto straordinario, stupendo, mi guardo intorno e dico: io non riesco a credere che questa sia la mia vita, o meglio, questo sia il mio lavoro. E che lavoro, $1,000,000. Oppure custode di isole bellissime, anche questo è un lavoro che c'è. Anche quello che testa gli scivoli d'acqua nei parchi d'acqua, io punto su quello. Collaudatore di alberghi di lusso. Esatto, io pensavo collaudatore di scivoli per le piscine. Via libera alla fantasia, ma anche a cose reali. 800 24 00 24, anche questa sera ha le risposte più originali, più belle, più interessanti. Mettiamo in palio sì, venerdì finiamo il catalogo del MUDEC, Museo delle Culture, e la mini guida di Expo, due classici di 24 ore cultura. Roma, voci Santanchè, Rutelli, anzi Santanchè, sottosegretario Zanetti e Rutelli. Gli hanno fatto questo cordone sanitario intorno, gli hanno messo due dita negli occhi, perché il suo ex assessore al bilancio oggi torna ed è commissaria del debito. C'è Gabrielli che è sopra la sua testa, gli hanno messo intorno non so quanti tecnici, ma Dio mio, ma la faccia di un uomo, di guardarsi allo specchio e di dire: non mi posso fare umiliare così, perché gli hanno fatto fare la figura del cretino. Dal nostro punto di vista, come Scelta Civica, sarebbe opportuno andare a votare. Peraltro il fatto che Marino commenti questi eventi dall'altro capo del mondo è un sintomo proprio della sua, non metto in dubbio la sua onestà, ma proprio della sua incapacità politica. Io mi sarei aspettato che la città, un minuto dopo che il Papa a sorpresa avesse annunciato questo giubileo straordinario, avesse già deciso per conto suo. Questo non è avvenuto, e ora siamo al, quant'è, 28 agosto? A me risulta che neanche un cantiere, ma neanche di quelli minimi, sia stato aperto. Partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di Bice, bella come un'attrice. Un governatore del sud ha deciso di prendere le parti degli insegnanti che dovranno trasferirsi al nord con la riforma della buona scuola e la stabilizzazione dei precari. E lo fa con una proposta che farà sicuramente discutere. Con noi Michele Emiliano, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, lei ha fatto una proposta per venire incontro alle esigenze di questi insegnanti, per cui quest'estate si è parlato anche di deportazione, forse a sproposito, ma insomma qualcuno ha usato anche questa parola. Però la proposta me la fa subito dopo il traffico, aspettiamo un secondo? Assolutamente. Traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di Bice, bella come un'attrice, e cantava le canzoni. Allora, Allora, Presidente Emiliano, per venire incontro a questo trasferimento in massa dal sud al nord, perché diciamocelo chiaramente, ci sono molti insegnanti al sud e molte classi vuote al nord, quindi il movimento che dovrà esserci è questo. Però abbiamo sentito che, abbiamo visto i dati, molti insegnanti hanno rinunciato, 1200-1300 euro al mese sono troppo pochi, allora lei, lo anticipo, affitti e treni scontati per gli insegnanti a pagare per esempio la Regione Puglia, è così? Noi partiamo dai numeri. Ho come presidente della regione 2000 persone in partenza, che corrispondono a un traffico, diciamo, migratorio di una certa importanza, perché 2000 persone che nel giro di poche settimane non sanno neanche ancora precisamente dove devono andare, devono raggiungere il posto di lavoro, ovviamente sono un problema complessivo per la nostra comunità. Una mini migrazione, si può dire, una mini migrazione. 2000 persone che partono nel giro di un paio di mesi sono tante, ovviamente ci sono problemi che riguardano chi rimane della famiglia che viene in questo modo separata. Ci sono problemi per chi arriva nelle comunità dove deve svolgere il ruolo di insegnante, e ovviamente sarebbe preferibile far sapere per tempo ai servizi sociali, alle scuole, agli asili del luogo di destinazione dove queste persone stanno arrivando, perché è evidente che potrebbero essere in ritardo per l'iscrizione nelle scuole, in ritardo per gli asili, e in generale tutte queste operazioni hanno bisogno di un minimo di sostegno, non sto parlando di niente di particolare. Se poi addirittura, come avviene in molte aziende, noi diamo un minimo di sostegno economico alle persone per i trasporti quando le induciamo ad andare a prendere servizio in un altro luogo, credo che noi aiutiamo la legge a funzionare, al di là del giudizio positivo o negativo che si dà sulla legge, collaboriamo lealmente e lo facciamo con un gesto anche di attenzione e di solidarietà nei confronti di un blocco sociale, quello della scuola italiana, che è la Costituzione incarnata. Cioè, non sono, come qualcuno li considera, l'ultima ruota del carro, sono delle persone che stanno costruendo il nostro futuro attraverso la cosa più importante che mettiamo al mondo, che non sono i redditi, ma sono i nostri bambini, i nostri figli. Però fino a che punto si spingerebbe questo, diciamo, sostegno? Adesso lo dobbiamo semplicemente misurare, si tratta di stabilire come fanno i carabinieri, come fanno le altre, quando trasferisci qualcuno da un'altra parte gli dai un contributo per il trasferimento, gli dai un riferimento per l'alloggio e soprattutto gli costruisci attorno un meccanismo nel quale questo trasferimento non viene preso come un sopruso, ma anzi come un'occasione, come un'opportunità, come un modo per aumentare la propria professionalità, le proprie esperienze. Cosa risponderebbe a chi, magari ascoltando, dice sì, però per i dipendenti privati, per gli artigiani, per le partite IVA o per semplicemente quelle aziende, è successo pochi giorni fa, tra l'altro, caso vuole, la Sogese, una piccola azienda, ha fatto notizia che dalla provincia di Pisa si è trasferita a Bari, cioè nel suo territorio, una trentina di dipendenti privati, nessuno però si è posto questo problema. Ma escludo che le aziende private non si pongano questo problema, tutte le aziende private quando trasferiscono i propri dirigenti, gli insegnanti hanno un ruolo, diciamo, di questo tipo, quando trasferiscono i propri dipendenti si devono porre il problema dei costi di questo trasferimento. Ma quindi è una cosa che poteva fare direttamente il governo, allora, secondo lei? Poteva essere pianificata questa cosa? Prevista? Se mi vuol far dire qualche cosa contro il governo non ci riesce. Era un blandissimo tentativo, no, però se lei dice è corretto, no, ma se lei dice che le aziende private lo fanno assolutamente, come no, certo che lo fanno. Lo fanno, guardi, lo fanno anche i carabinieri, i pubblici dipendenti. Se un carabiniere viene trasferito di punto in bianco, qui il punto è un altro, che dal punto di vista formale il governo è a posto, perché in realtà molte di queste persone in realtà vanno a prendere il primo servizio, nonostante lavorino per l'amministrazione già da moltissimi anni, perché in questo momento il loro rapporto di lavoro finalmente diventa un rapporto stabile e fanno il loro primo contratto di lavoro, diciamo, a tempo indeterminato. Molti di questi però da moltissimi anni avevano impiantato la loro vita sia pure sulla base di contratti di lavoro precario, e quindi adesso la devono smontare, e non è una cosa semplicissima. Ma questo smontare la vita può giustificare il ricorso all'espressione deportazione, come è stato fatto da parte di... Ma guardi, l'Italia è un bellissimo paese, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa, quindi essere deportati in Italia è comunque comunque sempre una cosa è sempre un vantaggio, è sempre una cosa che può portare grandi esperienze. Io stesso ho vissuto sia da bambino l'esperienza della migrazione per motivi di lavoro, perché mio padre non aveva lavoro qui al sud e siamo stati per i primi 10 anni della nostra vita familiare in Emilia, a Bologna. Quindi l'ho vissuta, è stata durissima. Mia madre era una giovane madre con un secondo figlio di pochi mesi, io avevo 3 anni, è stata molto complicata, però l'abbiamo superata. Se avessimo avuto qualcuno che ci dava una mano, forse alcune delle vicende familiari che ci hanno riguardato sarebbero state meno traumatiche. Certo, ovviamente non vedevamo l'ora di tornare a casa, cosa che grazie a mio padre siamo riusciti a fare, però tornare a casa, stare nella propria terra, ovviamente è un obiettivo di tutte le persone, un legittimo obiettivo. Adesso, siccome molti di questi avevano costruito la loro vita, qui ci sono precari. No, ma il dubbio è che ci siamo mossi. No, il dubbio è che ci siamo mossi proprio perché è stata usata anche questa espressione, no? È stata un po' calcata la mano. A me mi sembra un po' esagerata. Ci sono molte categorie di lavoratori che si devono muovere tutta la vita. Quindi io non parlerei di deportazione. No, giusto. Di anche verifica io dei disagi, quello sì. Esatto, io forse le faccio una domanda stupida, mi scusi, sono lo stupido dei due, quindi è il mio ruolo. Ma perché non io sono abbastanza d'accordo con la sua proposta di dare un contributo, di aiutare, perché è una situazione che riguarda tante persone, quindi mi sembra saggio occuparsene. Forse un po' stupidamente mi sembra strano che sia la regione di partenza a mettere dei soldi, come a dire è bene che andate via. Invece io farei mettere il contributo nella regione d'arrivo. Hanno pagato le tasse. No, lo so bene, lo so bene, però a me suonava strano questo. Tra regione di partenza e regione di arrivo, con una considerazione anche da parte dello Stato. Per esempio, lo Stato potrebbe consentire a queste persone nei primi anni della loro permanenza di avere degli sconti sui viaggi aerei, sui viaggi in treno, avere la possibilità, come hanno tanti cittadini in situazione di disagio, di avere un contributo sull'affitto, si chiama contributo alloggiativo. Se lo dedicassimo in modo specifico al buon funzionamento della nuova legge sulla buona scuola, questo aiuta la legge a non essere oggetto di polemiche e secondo me allenta anche la tensione, che è molto forte in questo momento. Senta, un altro argomento però che riguarda la sua regione è quello del caporalato, perché il ministro Martina ha annunciato una legge che prevede, non so, confisca dei terreni alle aziende che fanno ricorso al caporalato. Come si fa però a accorgersene? Cioè, ci vogliono dei controlli? Non sono stati tagliati i fondi per gli ispettorati del lavoro, per esempio? Cioè, un po' una rincorsa ad una sempre maggiore repressione di cose che però andrebbero controllate, no? Guardi, sono 20 anni che l'Italia taglia le spese sui controlli, le taglia sui carabinieri, sulla polizia, sui magistrati. Noi stiamo tagliando tutto quello che riguarda la repressione dei reati, e tant'è che stiamo concentrando tutto sulle investigazioni penali. La centralità dell'indagine penale deriva dal fatto che costa meno, nonostante le intercettazioni telefoniche, dell'impedire il reato prima che questo venga. Non so se funzioni perfettamente come tecnica, bisognerebbe accoppiare l'indagine penale alla prevenzione. Quello che è sicuro è che ovviamente noi abbiamo approvato, diciamolo chiaramente, delle leggi che consentono l'intermediazione della manodopera anche in agricoltura, con una facilità tale che basta rivolgersi ad un'agenzia interinale per coprire anche un meccanismo che probabilmente rischia di avere la natura dello sfruttamento tipico del caporalato. Adesso bisogna cambiare immediatamente queste leggi, perché le leggi in vigore non consentono la repressione adeguata del fenomeno. Questo ha voluto dire Martina, senza fare polemica col passato, un passato nel quale evidentemente qualcuno pensava che nel momento in cui si dava questa facoltà ad un'agenzia interinale, il caporalato improvvisamente si trasformava in una cosa moderna, europea e priva di aspetti di sfruttamento. Lo sfruttamento con le agenzie interinali è pur sempre possibile. Quindi la legge ci voleva. Ma non è che molte di queste aziende sarebbero fuori mercato se i dipendenti, cioè le persone che lavorano nei campi, fossero pagate correttamente, perché c'è proprio una questione di prezzo con la concorrenza dei paesi nordafricani, per esempio? È possibile, però è anche vero che per esempio in Puglia noi sosteniamo queste imprese con i fondi europei, con un PSR importantissimo di quasi 1.600 milioni, in più ci sono tutti gli aiuti europei della cosiddetta PAC, che sono una cosa che peraltro vale per tutta Italia. Non c'è nessuna ragione, e devo dire che da questo punto di vista tutte le organizzazioni delle imprese agricole, sono d'accordo con la CGIL, qui in Puglia c'è una convergenza tra le grandi centrali agricole e la prospettiva del sindacato sulla repressione degli illeciti da questo punto di vista, perché è una vera e propria lesione della concorrenza. Quindi c'è un'alleanza qui in Puglia e credo in tutto il Mezzogiorno, sì, per reprimere questo tipo di fenomeni che alterano la concorrenza e colpiscono le aziende corrette, che sono la stragrande maggioranza. Senta, come avrebbe reagito lei da sindaco a quello che è accaduto a Marino? Cioè il prefetto, l'affiancamento all'ex assessore che diventa commissario sui conti pubblici, commissariamento o mezzo commissariamento? Guardi, è una situazione difficilissima quella nella quale si trova Marino, e in questo momento credo che lo scopo che tutti vogliamo perseguire è di aiutare il sindaco a svolgere al meglio la sua funzione. Quindi adesso. Però non è una cosa molto normale, no? Questa qui, cioè non è che succede tutti i giorni che il sindaco. È assolutamente unica nel suo genere. Io non ricordo, diciamo, situazioni di questo tipo. E non tutti, diciamo, stanno cercando di aiutare Marino. Direi che c'è anche chi sta cercando di affossarlo. Anche questo è difficile da comprendere. Fino a che punto provvedimenti di questo tipo indeboliscano il sindaco o intendono colpirlo, e fino a che punto invece intendono aiutarlo, è difficile stabilirlo. Starà all'abilità del sindaco, nella natura politica e nella natura amministrativa, profittare di questa situazione per ribaltarla. È chiaro che c'è una situazione di difficoltà dell'amministrazione, ed è chiaro che una capitale come Roma non può avere l'amministrazione comunale in crisi di motivazione o peggio ancora incapace di controllare la complessità che una città come Roma pretende. Senta, visto che è tornato Massimo D'Alema alla Festa dell'Unità a parlare, ha detto abbiamo perso 2 milioni di voti parlando del PD, non possiamo allearci con Alfano, bisogna svoltare a sinistra, condivide? Ma io da sempre sostengo che il Partito Democratico debba guardare con particolare attenzione alla sua sinistra, nonostante i limiti di questa sinistra, che sono enormi, perché bisognerebbe ricordare a D'Alema che questa era la sinistra fatta apposta per far vincere Berlusconi, e quella sinistra di cui alle volte parla D'Alema purtroppo non era certamente la soluzione al caso. Non è però la soluzione neanche immaginare che il centro-sinistra cambi la sua natura politica, cioè smetta di essere il riferimento di chi vuole realizzare la Costituzione, soprattutto sotto l'aspetto del principio di uguaglianza delle opportunità e dei meriti, e che quindi divenga il centro-sinistra il luogo dove l'unica cosa che conta sono i risultati e la concorrenzialità complessiva del sistema. Bisogna trovare un punto di equilibrio. Le socialdemocrazie europee che funzionano si pongono il problema della competitività delle imprese, ma anche quello della giustizia sociale. Il PD deve realizzare questi obiettivi con equilibrio, rimanendo un partito di sinistra, non certo trasformandosi nel suo opposto. Senta, a proposito del pupillo di D'Alema che era Bersani, una domanda scherzosa. Non so se ha visto girare in rete delle foto di George Clooney senza capelli, che diventa proprio la fotocopia di Bersani, cioè sono uguali. Le ha viste? No, non le ho viste, io peraltro la bellezza maschile non riesco a comprendere. Non si interessa, non si neanche io moltissimo. Però la bellezza aiuta, no, in politica, quindi Bersani si assomiglia a George Clooney, è un bell'uomo. È stato sottovalutato Bersani in questi Bersani anni? Mi sembra un uomo assolutamente gradevole nell'aspetto, altro non posso dire. No, ma parliamo se è stato sottovalutato o meno, al di là della bellezza. Dal punto di vista della bellezza, devo dire che lui non si è mai, diciamo, proposto come una reginetta da concorso. Però faceva il crooner, cantava le feste dell'unità. E ha sempre tenuto un atteggiamento molto, molto sobrio. Quindi ineccepibile da questo punto di vista. Forse troppo sobrio. Non ci posso dire, bisognerebbe parlare con lui. Va bene, grazie, buona serata Emiliano. Buona serata. Grazie mille, buona buon serata. Lavoro. Adesso ci fermiamo, c'è la borsa, torniamo tra poco. 800 24 00 24. Lei che è un radical chic, no? Io sì, grazie. Si può fare l'attualità anche d'estate. Non è un buclamento. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buonasera, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera a tutti. Ricordiamo anche la pagina Facebook, vai, Twitter. La nostra pagina Facebook è Si può fare trattino Radio 24, il nostro account di Twitter è Radio... No, si è può si fare, può 24, fare 24, mamma mia, non scusa. Hai ancora imparato, è sei vero. Scarsissimo. E se no potete scriverci sui nostri account personali, il mio è chiocciola Carlo Gabardini. E il mio chiocciola Ale Maurizi, allora. E dobbiamo anche salutare, secondo me, il sindaco di Venezia, Brugnaro, che, di cui ne abbiamo parlato spesso. Perché ne abbiamo parlato spesso, sì, perché aveva vietato i libri, evocato. Erano 49 libri vietati, l'abbiamo già lui, invitato, esatto, ma non è venuto. Li aveva già comunque limitati, alla fine erano solamente due i libri vietati, che poi abbiamo anche seguito la questione di CL, polemizzato con Elton John. L'altro ieri ha detto mai nella mia città un gay pride, assolutamente, usando anche parole molto scomode, e invece oggi ha fatto un retrofront, assolutamente. Sia al gay pride sia Elton John, ha detto secondo Venezia potrebbe essere un'ottima città per fare il gay pride, il primo gay pride, in realtà non è vero perché a Venezia già ci fu un gay pride nel 2014, però dice sull'acqua e addirittura aperto anche agli eterosessuali. Ricordiamo al sindaco Brugnaro che tutti i gay pride sono aperti agli eterosessuali, non sarebbe mi una novità. C'è un dubbio, non sarà che, come diceva la Castaldini, la portavoce, ti ricordi, l'NCD ha cambiato il consulente per la comunicazione? No, non lo so perché. Ah, questo può essere, hai ragione. Questo hai cambiamento ragione. Così, no, mi dicono di no dalla regia. Temevo che iniziassi con delle ipotesi di lobby gay e così via. Invece io direi che anche se in ritardo è un'ottima notizia che Brugnaro ha detto tutti hanno il diritto di manifestare. Io personalmente non sono tanto a favore di questo tipo di manifestazioni, però assolutamente candido Venezia per un gay pride nel 2016. Ascoltatori, andiamo con Flavio che ci chiama dalla provincia di Verona. Buonasera Flavio. Buonasera. Scusa se disturbo. Non io disturba. Io volevo esprimere un modesto parere sul sindaco Marino. Sì. Prego. Allora, per me ha un dono particolare che sa darsi delle martellate sulle unghie continuamente. Diciamo le unghie, diciamo. Ha detto le unghie per quello. Però, a mio giudizio, è una persona corretta. Una persona che probabilmente... Cioè, un gaffer, secondo lei è un po' un gaffer? Uno che si... Sì, sì, sì. Che si fa del male da solo. Da solo, purtroppo sì. Perché, a mio giudizio, tenga presente che io non sono un uomo di sinistra perché sono di destra. Sì. Dunque, difendere Marino sembra un po'... difficile, però lo vedo una persona onesta e probabilmente non riescono a fare le ruberie, gli intralazzi che hanno sempre fatto in quel comune lì. E quindi purtroppo stanno cercando di punirlo. Di farlo fuori, devono mettere qualcun altro. Guardi, confesso che io sono piuttosto d'accordo con lei, senza avere dati in più di quelli che ha lei, ma penso anch'io che in realtà sia una bravissima persona. No, sono molto d'accordo che in qualche modo hanno deciso di farla fuori perché si sta occupando forse bene di determinate cose, poi con estreme difficoltà, perché sicuramente più che un politico è uno che si sta occupando veramente delle questioni da risolvere. Io sono molto d'accordo con lei. Va bene. Io vorrei fare l'ultimo appunto, una ventina d'anni fa, a me è sempre piaciuta un po' la politica. Sì. Sarebbe piaciuto entrare e avevo fatto un corso dove una persona spiegava di non mettersi mai contro i funzionari, contro i dirigenti, perché loro rimangono e voi e tu vai, politici, e i politici andate e pertanto decidono. E questa è la lezione anche per Marino? Sì, io la vedo così. Va bene, grazie, buona serata. Grazie Flavio. Mille. Ciao Lisa. A lei, buon lavoro. Lisa grazie. Da Pisa, buonasera. Lisa? Buonasera, mi sente? Sì, forte e chiaro. Cioè, forte non tanto, chiaro abbastanza. Nemmeno. Ok, allora, d'accordo, sono Lisa, ho 35 anni e chiamo da Pisa. Ho telefonato perché si parlava un po' del lavoro dei propri sogni. Sì. Sì. Da ragazzina, diciamo che ne avevo un po' tanti, dal fare l'astronauta al diventare medico. Adesso il mio sogno più grande sarebbe quello di poter avere un lavoro. Ha proprio un lavoro qualunque, purché sia, perché sei disoccupata al momento, Lisa? Al momento sono disoccupata, io sarei un'insegnante precaria, molto precaria. E non sei rientrata nella stabilizzazione? No, tra l'altro ci credo molto poco a tutte queste trasformazioni, perché ho fatto un concorsone e dopo aver avuto esito positivo, non so come, ma... non si è andata, cioè non è andata avanti nulla. E poi quando mi hanno detto che dovevano essere presentate le domande in 100 province, cioè, mi sono sentita un po' un pacco, nel senso che dopo aver dato, aver studiato tanti anni per questa nostra nazione, sì, aver pagato tasse e quant'altro, comunque ho conseguito vari titoli accademici, non soltanto mi viene chiesto di presentare domande in 100 province, cioè e io non sapevo dove andare a finire, ma però scusa, mi sono distratto un attimo, Lisa, non ho capito, tu non hai proprio fatto domanda per questo, no, per la sanatoria? Non l'ho fatta perché trattando... avresti avuto i titoli per farlo? Sì, probabilmente sì, perché me l'avevano detto. E non temi di aver perso un'occasione? No. No, io credo che in Italia stiano un po' giocando con gli italiani, con riforme e contro riforme. Io qualche anno fa ho fatto il concorsone, è andato bene, non sono stata assunta ancora, sì. Quindi sono stanca di questi giochini e penso anche che stanno eludendo tante persone, non ci credo in queste grandi assunzioni, sono stanca. Ho mandato curriculum in svariate parti, avendo studiato all'estero e quant'altro, avendo raccolto vari titoli, persino l'Esselunga mi risponde, gentile signorina, non è possibile assumerla perché per eccesso di requisiti non vorremmo essere... Ah, eccesso di requisiti, sì. Che è sempre molto doloroso. Ascolti, al di là che mi sembra molto indicativo il fatto che noi stiamo chiedendo il lavoro dei vostri sogni e lei ci risponde il lavoro dei miei sogni è avere un lavoro, punto, però ci dica lo stesso... Secondo lei, se proprio potesse scegliere liberamente, quale sarebbe il lavoro dei suoi sogni? Qualunque tipo di lavoro? Se c'è. Io vorrei fare l'insegnante, perché perfetto. Per me educare i giovani di oggi vuol dire dare all'Italia un futuro domani. Va bene Lisa, grazie. Bocca al lupo. E chissà che magari invece le prossime, diciamo, step di questa regolarizzazione un po' complessa, forse sbagliata anche in certe parti, sicuramente non possa invece poi tornare a profitto anche per lei. Paolo da Como, buonasera. Buonasera. Dunque, io volevo fare un commento riferito a nessun problema. Due settimane fa un ascoltatore, sì, diceva che, visto che ci sono le 124.000 parrocchie in Italia, se ogni parrocchia prende 2-3 immigrati in casa, risolviamo il problema organizzativo. Mm-hmm. E io ho fatto un ragionamento. Un mesetto fa circa ho letto su un giornale che l'ex ministro Tieng aveva suggerito che gli italiani dovrebbero aiutare gli immigrati prendendone uno in casa. Se ha detto questo a Tieng? L'ho letto su una rivista online di un giornale quotidiano nazionale. Magari non è vero. Vabbè, comunque non lo so, non me lo ricordo questa cosa. Sì. Finisco in certo. Se visto che il 40% hanno votato per l'Europa, ha votato il PD che ha mandato la Chienga a fare il ministro prima e poi come parlamentare europeo, se ogni elettore del PD prende un immigrato in casa, il problema è risolto. Sì, non ho capito perché è partito dalle parrocchie. Che cosa c'entra le parrocchie? No, ha fatto il paragone. Grazie Paolo. Te lo spiego io. Ha fatto il confronto con il discorso che è stato fatto da Salvini, dalla Lega sulla Chiesa. Prendetene uno per parrocchie, sono 25.000 parrocchie, quindi si 75.000. Dovrebbe... Adesso questa scusa sta per estensione. Siccome la Chienge avrebbe detto, io non me la ricordo questa dichiarazione, però può darsi. L'ex ministro Chienge è molto, diciamo, per l'accoglienza a 360 gradi, però non credo sia così che si risolve i problemi, stando anche a quello che avrebbe detto lei, cioè ognuno se ne prenda uno a casa. Poi non farei solo quelli del PD, nel senso che comunque ricordiamo che al governo c'è anche Alfano, ecco, non è che c'è solo il PD. Traffico, torniamo tra un attimo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Children of tomorrow need no melodies. There's music blowing off their eyes. The children of tomorrow need no melodies. And silence they synchronized. The children of tomorrow. Vogliamo tornare sul caso del bambino di Martina Levato, perché c'è una proposta che arriva da Don Mazzi. Buonasera Don Mazzi. Sera. Buonasera. Don Mazzi, fondatore di Exodus, prete, personaggio della televisione, tanto che qualcuno l'ha ribattezzata al prete dei VIP. Beh, sai, qui ognuno racconta la sua, quindi lasciamola raccontare. Senta, lei, Don Mazzi, ha preso una posizione molto netta, mentre la maggior parte, forse degli italiani, schierandosi subito di pancia su questa cosa, hanno detto: non è possibile che questa donna allevi un bambino dopo quello che ha fatto. Lei ha detto invece: sì, lo venga a fare nella mia comunità. Perché l'ha detto? Perché sono convinto che prima di tutto questa donna è vittima e non è protagonista di quello che è accaduto. Seconda cosa, proprio credo che sia la maternità, visto i precedenti di questa donna già laureata, una ragazza che ha una infanzia e un'adolescenza normalissima e che poi ha incontrato forse un amore sbagliato, più che un amore, non so neanche io come chiamarlo. Ma perché dice vittima e non protagonista? Perché dice che in realtà è vessata dal marito? Dal compagno? Dal marito, ma certamente è stata sedotta. Ma lei l'ha conosciuta di persona? Ho conosciuto i genitori perché sono insegnanti e io li ho incontrati negli incontri che io faccio nelle scuole. Di solito mi godo anche sempre poi fermarmi. E sono due persone molto equilibrate. Questa ragazza, per lei, io conosco le sue amiche, ne ha avuto, come dicevo prima, un percorso fino a 23 anni, 20 anni, insomma, molto regolare. Quindi secondo lei, Don Mazzi, secondo lei il male finisce col compagno di Martina? E invece... poi è successo quello che è successo, una sedotta, secondo me qualcosa di più del sedotta, ecco, lì dietro credo che sarebbe opportuno riflettere e leggere con molta più attenzione il caso. Però sarebbe comunque una scommessa, ne vale la pena rischiare per quanto riguarda il bambino per recuperare lei? Secondo me il bambino con questa ipotesi, per carità, qui è tutto rischioso. Sono ambo due credo portano gli stessi benefici, si portino l'un l'altro gli stessi benefici, un 50% ciascuno. La mamma attraverso il bambino e il bambino attraverso la madre, sapendo che oggi sapendo che 9 mesi dentro la pancia di una donna non sono soltanto 9 mesi di qualche cosa che si sta svegliando, va bene, ma ci sono emozioni e tutto il resto, per cui già 9 mesi di vita li ha passati molto bene. Però scusi, l'ha passati bene, poi... ma però Martina è una persona che è stata capace di un gesto di grandissima cattiveria, al di là di grandissima violenza, al di là del fatto che sia stata, come dice lei, spinta, plagiata fortemente, plagiata, però lei lo ha fatto, quindi questo c'è dentro di lei o no? Non lo so, io non... Io vorrei che questo caso fosse più analizzato. Secondo me c'è stata troppa fretta nel giudicare e c'è altrettanta fretta adesso. Io ho già perso la guerra, per cui parlo da un perdente. No, ma mi scusi, ma anche perché mi sembra che Martina Levato avesse mesi prima tentato di virare un altro ragazzo. E da quanti ragazzi è stata plagiata questa donna? Non lo so, adesso... Ha avuto delle simpatie, ma la potenza dell'uomo ultimo, la capacità, la personalità dell'ultimo uomo non è soltanto una personalità forte, c'è anche qualcosa di più strano che va capito. Beh, questa, è la mia idea. Quello che volevo capire era se lei dice Martina Levato è colpevole, ma comunque io penso che debba rimanere con il bimbo, oppure se lei sta dicendo secondo me è anche meno colpevole di quello che ci stanno dicendo e quindi ancora a maggior ragione io voglio che resti col bimbo. C'è della colpevolezza, perché anche nell'aver eseguito la cosa che ha fatto, ma c'è una colpevolezza che in qualche maniera la chiamerei debolezza, cioè si è lasciata troppo influenzare da un personaggio che ha inciso talmente dentro di lei da cavalli la sua personalità. Però come la mettiamo, volontà. Scusi Don Mazzi, col fatto che questo bambino, per questo bambino ci sono tantissime richieste di adozioni, potrebbe andare a vivere in una famiglia che lo vuole tantissimo e dove non rischierebbe assolutamente nulla, perché insistere in questa situazione? Io insisto sulle vie naturali, va bene? Le vie naturali sono queste. Anche perché io conosco la storia di questi ragazzi adottati, sono storie molto belle, però l'adolescenza di questi ragazzi, già l'adolescenza per se stessa anche in una famiglia naturale è molto difficile. Aggiungere all'adolescenza difficile anche l'adozione, con tutte le grandi domande che si fa, il ragazzo e il bisogno che ha di capire come è nato, dove è nato, chi è che l'ha fatto nascere, crea situazioni, anche nelle migliori famiglie, crea situazioni molto problematiche. E quindi io dico la mia, tra le due problematiche è molto meglio che domani, quando questo ragazzo va a 12 anni e la madre che ha combinato quello che ha combinato gli possa dire con grande sincerità che cosa ha fatto, perché lo ha fatto, e sia capace anche di farsi perdonare da un figlio che sa che ha una madre che è fatta così. No, beh, ma dirglielo è un conto, può mandargli una mail, però dopo 12 anni non è che deve viverci tutti i 12 anni insieme. Mandare una mail è una battuta, quello che sto dicendo. O venire a sapere comunque di chi è figlio, senza però dover convivere con una persona che, ripeto, è stata capace. Io non so se lei ha conosciuto persone capaci di gesti così violenti, che poi si siano completamente cambiate. Ma non si è pentita, però, Martino. Tra l'altro, va detto anche questo: è ancora sotto seduzione. Forse essendo sotto seduzione di questa persona, diciamo sotto plagio di questa persona, lei gli farebbe allevare il figlio? Perché il figlio è l'unico che potrebbe liberarla da questo personaggio e aiutarla a tornare quello che era. Il figlio potrebbe togliercela, ma potrebbe togliercela anche una galera dove stanno separati, due celle molto lontane una dall'altra. Senti, io ho odiato sempre le galere, quindi lo sapete bene che io ho sempre odiato le galere, perché in galera si può solo peggiorare. Soprattutto non abbiamo il concetto di una giustizia rieducativa, noi continuiamo sempre a parlare di giustizia punitiva, va bene, e questo popolo italiano l'abbiamo in qualche maniera plagiato, per cui il popolo italiano dice che laddove uno quando sbaglia deve andare in galera, perché se va in un altro posto che non è la galera non è recuperabile. Questa è ignoranza, va bene, dovuta da noi grandi che abbiamo in qualche maniera continuato a raccontare favole alla nostra gente. Ma in questo secondo me c'ha molto ragione, anche perché la nostra Costituzione dice che la galera in Italia è riparativa e non punitiva, però è più un discorso su come funzionano le carceri, quindi lei sta facendo un discorso in generale dicendo è siccome dovuto il sistema anche nei carceri, confronti delle vittime, no? È dovuto anche. Io dico che si può scontare gli sbagli anche in luoghi non carcerari, ma che hanno delle regole ben precise, che sono seguiti da una magistratura intelligente e da una legislazione intelligente, ma che non ha un clima carcerario. Questo, certo. Questo è possibile che possa scontare la pena in un altro modo, ma questo vale per chiunque. Sì. Resta la questione del bambino, ma del resto lei ha espresso chiaramente il suo punto di vista. Sì. Le posso chiedere un'ultima cosa per quanto riguarda, l'avrà già detto altre volte, il suo pensiero su comunione e liberazione, perché c'è stato il meeting e c'è stato di nuovo le critiche. Un parlamentare del Movimento 5 Stelle ha detto non c'è più spiritualità, zero, solo denaro e potere. Ma io ormai ho voltato pagina su questo, non ho letto neanche una riga di questa settimana su questa settimana. Zero, non le interessa? Non mi interessa, è un'altra visione politica, un'altra visione religiosa, è un altro mondo. Io non ho tempo da perdere, ho già 85 anni, non ho tempo da perdere. Va bene, grazie. Quindi, prego, Don Mazzi, grazie, grazie buona mille, serata. Buona serata. Ciao. 800 24 00 24, controcorrente sicuramente, perché c'è stato un sondaggio subito appena uscita la notizia. della nascita del bambino e della questione dell'adozione, l'80% degli italiani non la pensano come Don Mazzi, però era giusto forse anche, visto che invece qualcuno la penserà anche così. E forse anche perché è giusto non chiederlo alla popolazione dove mettere la figlia, forse c'è qualcuno che è più esperto. GR, ci ritroviamo tra poco. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Intanto ho sentito delle parole veramente cattive, veramente pericolose, veramente idiote. Questi sono tutti ragazzi molto bravi, molto bravi. Lavorano, prestano la loro opera volontariamente a fare dei lavori utili qui in Bormio. Addirittura alcuni si sono tassati per fare delle opere di beneficenza, questa è una cosa di 3-4 giorni fa. Venire a dire di stupri, di violenze, senza sapere le cose come stanno, il signor Salvini, e mi dispiace perché io ero un leghista della prima ora, ai tempi di Bossi e di Miglio, e quando ho saputo dei furti e delle ruberie che hanno fatto, mi sono tolto, non ho più votato. Vediamo, la Lega. Poi, è questo, che il signor Salvini lo sappia. Non è né dei ragazzi che stanno qua e mangiano a sbaffo da 6 mesi. In minima parte dell'obbligatorio la colpa è di un governo che sta alloggiando ad oggi più di 93.000 immigrati, nella maggior parte dei casi clandestini. Ti spiegano il perché. Quello che è abbastanza incredibile sino ad oggi, ma io anch'io colgo i segnali positivi, e Gentiloni li ha sottolineati, è che l'Europa abbia affrontato questa emergenza senza avere un piano. Eccoci qua, buonasera di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buonasera e buon venerdì a tutti. Cari ascoltatori, ben ritrovati fino alle 20.30, 800 24 00 24, tra poco riprendiamo anche a sentire i vostri interventi. Anche sul gioco, sì. Anche sul gioco. Lo ricordiamo? Ricordiamo il gioco, stiamo chiedendo a voi ascoltatori quale sarebbe per voi il lavoro per il quale mollereste anche il posto fisso, il lavoro dei vostri sogni, perché siamo partiti dalla notizia di un blogger che va in giro per il mondo e riesce a guadagnare 1 milione di euro all'anno solamente. Foto, post sul suo recensioni blog. E così via. Beato lui. E quindi vi chiediamo quale sia il lavoro dei vostri sogni, che può anche essere assurdo, che può anche essere strano, che può anche essere inaspettato. Allora, la polemica sulla gestione della questione degli immigrati si è trasferita in montagna. Ecco perché siamo partiti con Heidi, siamo andati lì, perché a Bormio, lo sapete, il titolare di un albergo ospita da 6 mesi, l'Hotel Stella, diversi richiedenti diritto asilo, diversi profughi. Salvini è andato là davanti, ha detto non si può andare avanti così, perché non è questo il modo di gestire la questione. Anche i villeggianti, i turisti hanno chiesto che non si faccia così, e quindi anche nella tranquilla Bormio è scoppiato un casino. Più alberghi per tutti. 800 24 00 24. Ricominciamo anche con le punzecchiature di D'Alema e della minoranza PD a Renzi. Questo paese non è vero che per 20 anni c'è stato il berlusconismo e l'antiberlusconismo che si sono annullati a vicenda. Non è che io dico che bisogna ispirarsi al passato, ma neanche sputarci sopra per far finta di essere grandi, diciamo, una via di mezzo. So che tu ami le stelle, gettarti nel... Con chi andiamo alle elezioni? Con Casini, Alfano, Cicchetto e Verdini? O cerchiamo di rilanciare una prospettiva di centrosinistra? Da quel 41% i sondaggi ci danno al 30%. Quindi nel frattempo è successo qualcosa, diciamo. Siamo persi per strada 2 milioni di elettori. Ci sarà una ragione. Non lo so, l'effetto D'Alema, non so come spiegarlo. Ogni volta che D'Alema apre bocca, giornali, titoli, Lanza, mette le stellette, poi dice che manovra il PD D'Alema, ma manovra tutti, manovra... Dichiarazioni così un po' estive, dai. Però sembra di essere di nuovo negli anni 90. Giornale, abbiamo perso 2 milioni di voti, cosa facciamo? Attacca Renzi, eccetera, eccetera. Su Roma, le dichiarazioni nell'ordine che sentiamo: Santanchè, Fulvio Abate e Rutelli. Gli hanno fatto questo cordone sanitario intorno, gli hanno messo 2 dita negli occhi, perché il suo ex assessore al bilancio oggi torna ed è commissaria del debito. C'è Gabrielli che è sopra la sua testa, gli hanno messo intorno non so quanti tecnici, Ma Dio mio, ma la faccia di un uomo, di guardarsi allo specchio e di dire non mi posso fare umiliare così, perché gli hanno fatto fare la figura del cretino. Molti di noi hanno trovato ripugnante che lui sia rimasto, lui si trova a Nassau, da quelle parti lì più o meno, insomma alle Bahamas. In realtà perché lui è rimasto lì? Diamone una lettura umana, per non assistere al suo funerale politico, perché due funerali si sono svolti in queste ultime settimane. Funerale politico di Marino. Io mi sarei aspettato che la città, un minuto dopo che il Papa, a sorpresa, avesse annunciato questo giubileo straordinario, avesse già deciso per conto suo. Questo non è avvenuto e ora siamo al, quant'è, 28 agosto? A me risulta che neanche un cantiere, ma neanche di quelli minimi, sia stato aperto. Ma intanto che ne parlo sento crescere la fame. Questo della fame è un discorso che mi tocca. Ah, per Dio, se ci fosse anche un buon vino e del foie gras. Quella che sentite è l'orchestra di Via Padova. 8 anni di vita, 3 album realizzati, 16 musicisti provenienti da 9 diversi paesi nel mondo. Un ensemble forse unico, quasi, nel panorama musicale italiano. Sono qua in studio con noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Tutti no, tutti no. Non sono tutti e 19. Chi è ma microfonato sono... e chi no. Esatto, ma sì, sono sì. Tantissimi. Siamo felicissimi. Come sempre, quando in studio abbiamo la musica dal vivo, siamo felicissimi. Allora. Ora Massimo Latronica, presente. Latronico. Latronico, direttore dell'orchestra. Direttore artistico, fondatore. Sì, sì, no. Ho fondato questo progetto e ultimamente con l'ultimo CD ho lasciato il posto a Francesco Grigolo nella direzione musicale dell'orchestra per poter star dietro ai trasporti, alle organizzazioni. Ai trasporti, ministro dei trasporti. Ma non sembra, non sembra contentissimo, perché ce l'abbiamo qua il nuovo direttore, ma non sembra contentissimo. Volevo farlo io il ministro dei trasporti. Ah, ecco. Poi alla fine... era più conteso il ruolo di ministro dei trasporti che di direttore dell'orchestra. Poi è venuta fuori chissà. Così, a me mi hanno fatto presidente del consiglio. Certo, Ma ormai quindi, senza votazioni si diventa presidente. Destino dell'orchestra di Via Padova, insomma, tutti al governo. Francesco Grigolo, Massimo Latronico, abbiamo detto, poi abbiamo anche Massimo Marcher alla tromba, da di là, Juan Carlos Vega alla chitarra. Perù. Arriva Perù. Perù. Abdullahi Kader Traore al djembe. Si sa il djembe. Ho detto bene, perché prima ho detto Burkina... Bonghi, mi hai guardato subito malissimo. Il djembe è del Burkina Faso. Ok. Ed è di fianco a me, quindi ho qua di fianco lo djembe, giusto? Quindi, l'ho pronunciato giusto? Sì, il djembe. Perfetto. Meno male che hai le cuffie, perché Bonghi vengono da parte di Juan Carlos Vegas. Sì. Che sono Bonghi, certo. Strumenti che accompagnano su afro. Noi pensavamo che i Bonghi arrivassero da Piazza Sempione, da Corso Sempione. Invece no, non è Corso Sempione, i Bonghi. Impareremo anche un po' di cose che riguardano gli strumenti musicali che voi utilizzate. Tutto nasce però, Massimo, da Via Padova, Milano. Molti di voi vivono o abitano lì. Chi è che mi racconta tu cos'è Via Padova? Cosa rappresenta per Milano? Beh, per Milano innanzitutto sono tanti mondi che si intrecciano nella loro quotidianità con aspetti positivi e negativi, come in tutti i posti a Milano e in Italia. Da un punto di vista musicale c'è uno scambio molto, molto vivo, molto acceso, sì. Ma questo in tutta la città. Lì è naturalmente più evidente la presenza di culture diverse, e andando a vivere lì è diventato un passaggio, siccome vengo un po' dalla musica etnica, quindi da lì è nata un po' l'idea di mettere su questo gruppo multiculturale. Non mi piace, sì, molto usare la parola multietnico, però... Perché non ti piace? Spiegaci questa cosa qua del linguaggio. Ma perché più che altro mi interessa portare dentro... dentro l'orchestra delle culture musicali, non è tanto la provenienza geografica che fa una cultura musicale, come ci possono essere tanti violinisti coreani che sono grandissimi esecutori di musica classica ma che non portano niente della loro cultura. Cioè, non è sufficiente far parte di un'etnia, tu dici, ma bisogna portare dentro un pezzo di cultura. Non è la cultura che fa l'etnia e non viceversa. E questo è il nuovo direttore che si è inserito, l'ex ministro dei trasporti. Allora, io vi dico una cosa, ho guardato su Google News via Padova e devo dire che di notizie, ma sono tutte notizie, rissa sfiorata al mercato, qualche 2 mesi fa arresti per spaccio, eccetera. No, nel senso, come va in via Padova adesso? Nella norma, come tutte le vie di Milano, nel senso che poi la notizia purtroppo viene fatta dagli episodi negativi. No, certo, questo sempre, la cronaca sempre, però è un quartiere dove c'è stato anche un fatto di cronaca molto grave anni fa. Sì. E forse lì è stato un momento in cui si sono anche raccolte delle forze per cercare di cambiare l'immagine anche di questa zona della città. Sì, in realtà ci le forze avevano cercato di trovarsi già da prima, già da tempi non sospetti. Poi quell'episodio naturalmente ha fatto fare un balzo in avanti a tutti. Mi ricordo, si chiamava Ziz, la persona uccisa, è successo 4 anni fa. Noi facemmo un concerto organizzato col quartiere, col Parco Trotter, all'interno del Parco Trotter. Ci fu un momento in cui ci si unì molto, no? Ci si unì molto tra varie realtà, mi ricordo la Casa della Cultura Islamica in via Padova 134, insomma tante associazioni. Poi la cosa è andata avanti in qualche modo, soltanto che siamo in periodi un po' bui dove ognuno purtroppo deve star dietro al proprio progetto, alle poche risorse che ha a disposizione. E si riesce poco a mettere in comune, forse. Sì, poi in più ci sono dinamiche. Per un gruppo come voi, mettere in comune è tutto, chiaramente. Perché... Naturalmente. Poi ci sono anche dinamiche un po' dall'alto, dove si creano guerre tra poveri, ecco, dove per un pezzo d'osso ci si scambia. Parla di amministrazione comunale, di fondi, di soldi, in questo Ebbene senso. Sì. Ma intanto volevo prima dire una cosa che secondo me è uno dei dati insiti, siccome, della bellezza del progetto dell'orchestra di via Padova. È proprio che via Padova, solitamente a Milano, è sicuramente anche simbolo di una Milano multietnica, anche se è una parola che non ti piace, però viene sempre sui giornali, sulla stampa, se ne parla sempre solamente di fatti terribili, negativi. Quindi il fatto che voi riuscite a unire finalmente tutte le volte che c'è una notizia buona, di solito su via Padova, è legata all'orchestra di via Padova. Cioè il fatto di appropriarvi anche del nome e di non rinnegarlo in qualche modo, di non scegliere un altro nome, chiamarsi l'orchestrina multietnica, ma di mantenere proprio via Padova, per dire, voi pensate che in via Padova ci siano sempre un sacco di cose terribili, invece è proprio in via Padova che proprio è la forza, tutte queste culture che si mischiano sono la forza. Credo che sia un punto a favore del vostro progetto, o sbaglio? Sì, ma poi vorrei ricordare anche le scuole che ci sono in via Padova, dove i bambini crescono normalmente insieme ad altri bambini. Scorre la vita normale. Sì, e quindi il punto è che noi sembriamo un'eccezione, ma in realtà è quello che succede con lo stigma, no? Quando si crea uno stigma negativo e poi sì, si deve sempre confrontare, come diceva lui. Mi fate andare alla borsa o mi volete accompagnare con qualcosa? Un po' di... Volete musicare la borsa casino. Che crolla? 30 secondi per la borsa, per le informazioni di borsa, così, al volo però. Vai. Borsa. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Cuando a Chincha me fui a bailar, y en eso llegó del guayabo, escuché yo zapatear. Me quedé toda la noche bailando festejo al catrás, y amanecí con dolor de cintura, pero de tanto rumbear. Yeah, yeah, yeah. y San Reque me paría como el frijolé. La mulata tan bella me dijo sigamos bailando aquí. Me quedé toda la noche bailando festejo al catrás. Ya amanecí con dolor de cintura pero de tanto rumbear. ¡Toma ya! Y dice mi coro que dice así, hace chincha. Hoy así es, así es. Hace chincha. Mira para bailar y para cantar. Hace chincha. Como suenan los tambores. Hace chincha. Pero que tierra del arte negro. Hace chincha. Oye, para bailar y para gozarlo tú ves. Vamos al coro. Di Via Padova, come stipata, si chiama questo pezzo? Chi me lo dice? Come si chiama il pezzo? Así es chincha. Esattamente come volevo dire io, di nuovo quello che pensavo. Di nuovo? Adesso, así es chincha. Che vorrebbe así dire? Es chincha. Así es, come si dice la mia terra. Sì, così è la mia terra. Un posto può essere la Puglia, un esempio, no? Un esempio comune. Sì. Cincia è un composto dal Perù che si chiama. È un elemento della terra. Bravo, in qualche modo, che c'è in Perù. Adesso io però il presidente Emiliano pugliese, quindi vorrei sapere da Massimo qual era l'elemento legnanese di questa, perché ci sarà stata un'influenza. Chiara influenza spagnola, però tu sei legnanese. Io sono sei legnanese più esotico di tutti, e penso che sia l'elemento più esotico di tutta la l'orchestra, perché insomma tra Perù, Burkina Faso sei il più autoctono. Sono però. Più autoctono e ne vado molto fiero. A casa mia ci sono un sacco di profughi, li ospito tutti io, perché all'Iano non li vuole nessuno, quindi per ci me, pensi tu ad alzare sì, la quota? Assolutamente sì, e soprattutto loro ospitano te anche un po', assolutamente direi, sì, è un do des sì, esatto, sì, è reciproco. Hanno senti, adottato un legnanese finalmente, aiutati i legnanesi. Noi siamo ignorantissimi, quindi poi dovrete spiegarci che quanti strumenti avete, cose esotiche o cose normali, chitarra? Sì, sì, sia strumenti un po' etnici come le percussioni, il balafon, così, che strumenti classici, gli archi, i fiati, batteri. Però cose che spesso non stanno insieme, magari questo sì, ecco, la particolarità è anche un po' sì, questa. Sì, sì. Provate veramente a fare il miscuglione e il risultato ci piace. Andiamo con gli ascoltatori. Renato dalla provincia di Sondrio, buonasera. Buonasera. Buonasera. Vi voglio fare i complimenti per la trasmissione. Io vi seguo purtroppo, sono d'estate, e poi quando arriva il suo collega. No, non sia triste, però, Renato. Esatto. È venerdì sera, dobbiamo essere e tutti felici. È la nostra ultima Cruciani e Parenza. Ma noi torniamo il sabato e la domenica mattina. È un altro orario, è un'altra cosa, però ci siamo. All'alba. Senta, io volevo appunto esprimere la massima diciamo solidarietà all'albergatore di Bormio. Io sono valtellinese e quindi sono sul posto, vedo che praticamente non ci sono in giro stupri, non ci sono in giro problemi di ordine pubblico e alcunché. Veramente trovo assurdo, veramente, sì, di bassa lega, diciamo, questo comportamento. Che è anche una buona battuta, direi, di bassa lega, parlando di Salvini. Vabbè, comunque, fai fatto, praticamente il problema di ordine pubblico, se andiamo avanti così, è quando arriva Salvini, secondo me. Quindi è meglio che c'è un uccellino. Anzi, noi abbiamo sempre considerato, praticamente, noi siamo sempre stati abbastanza svizzeri, perché fino al 1600 eravamo svizzeri, no? Erano i giovani. Sentiamo male, Renato, la sentiamo male, Mi sente? Mi sente? No, no, no, non bene, non bene. Abbiamo Renato, capito che eravate svizzeri resti fino al 1600. Lì, poi se riusciamo a migliorare la telefonata lo riprendiamo, altrimenti in isba. Stefano da Roma, buonasera. Stefano? Pronto? Prego. Mi sentite? Sì, sì, benissimo, buonasera. Buonasera a tutti. Scusate, no, allora, non sentiamo neanche Stefano. Allora, stiamo imbroccando l'infilata delle telefonate sbagliate. Proviamo allora con Maria che chiama da Como. Buonasera, riuscite a sentirmi? Sì, sì, benissimo. Ho successo? Come? Riuscite? Sì, sì, la sentiamo benissimo. Sì, prego. Benissimo. Allora, io volevo fare un commento sulle proteste dei miei colleghi del Sud, che finalmente hanno, sono riuscite ad avere un ruolo, purtroppo però al nord. Volevo capire se stiamo parlando di professionisti adulti che liberamente da anni hanno scelto questa carriera e che quindi da anni sanno che i posti sono al nord, che da anni si muovono per venire a fare le supplenze annuali al nord, perché se sono precari e hanno raggiunto quei punti, hanno sicuramente la maggior parte di loro lavorato al nord, o se stiamo parlando di lavoratori con bisogni speciali. Quindi è giusto e doveroso come Stato. No, però ha sentito Emiliano, diceva che questa cosa si fa anche per i carabinieri o in altre funzioni pubbliche quando si chiede di fare il trasferimento. Secondo lui è una cosa normale. Trasferimenti. Queste sono primi impieghi, d'accordo, che hanno lavorato per anni come precariato. Io penso che nello Stato attuale, con il debito pubblico che abbiamo, ma non possiamo dire certe castronate, noi abbiamo bisogno di soldi. No, ma è legittimo da parte sua che ci sia un dubbio su quella cosa lì, è legittimo. Grazie Maria, grazie, buona serata. Andiamo con Concetta che chiama dalla provincia di Chieti. Concetta. Buonasera. Ah, buonasera. Finalmente qualcuno che sentiamo forte e chiaro. L'orchestra di Via Padova, se ogni tanto vuole contrappuntare musicalmente può farlo, con discrezione. Prego Concetta. Vorrei aggiungere la mia proposta su come affrontare l'attuale esodo, direi biblico, dai paesi in guerra verso l'Europa. Prego. Allora, ogni progetto ha bisogno di fondi per essere realizzato, no? Quindi il primo problema è il reperimento di un flusso finanziario. Questo può essere garantito da una giusta tassazione dei grandi social network, sì, anche dei grandi motori di ricerca, sia perché sono dei grandi evasori fiscali. Ma in che senso, scusi, come si fa a tassare un social network? Ci sarà un sistema, bisogna impegnarsi, allora che dobbiamo, stanno ci provando. Pensi meglio Concetta e ci richiami, ci faccio una proposta più circostanziata, grazie, buona serata, buona serata. Andiamo con Giovanni che chiama da Como. Buonasera. Buonasera. Dunque, io volevo intervenire riguardo a questa cosa dell'esodo degli insegnanti, deportazione, no? Cioè, mi sembra un po' di essere preso in giro da sti politici qua, perché la cosa da farsi sarebbe semplicemente sbloccare i contratti e dare a Cesare quel che è di Cesare. Mm-hmm. Io guardi, le parlo da esperienza diretta, perché ho fatto 10 anni avanti e indietro dalla Sardegna, perché ero di ruolo in Sardegna, da Varese. Ulla. Cioè, lei faceva avanti e indietro da Varese alla Sardegna. Sì. Ma non tutte le mattine. No, non tutte le mattine, perché il mio insegnamento prevede 2 giorni settimanali. Ah, perfetto. Quindi andavo, prendevo di tutto, aereo, nave, treni, insomma tutto un giorno per viaggiare e uno per tornare, e nessuno mi ha mai rimborsato niente. Certo, sì. Dopo arriva il trasferimento, dopo un po' di anni, a me purtroppo è arrivato dopo 10 anni. Però non capisco... Ma ne era contento? Lei. In giro, sì, anche ma lei era contento? Mi scusi, la pugliese che parlava. Mi scusi, ma lei era soddisfatto di questi 10 anni in cui si è spostato? Non ero soddisfatto, in Sardegna, ma era soddisfattissimo. I nostri politici sono rimborsati di tutto per fare il loro lavoro, no? Di tutto, per avere la funzione sociale. Cioè, abbiamo anche noi la funzione sociale ma senza nessun rimborso. Lo sopportavo, cosa devo fare? Ma avevo quindi è a favore, è a favore diciamo, del rimborso che ha proposto Emiliano per gli insegnanti pugliesi chiamati al nord? Ma è una presa in giro, che sblocchino i contratti e basta. Ah. Non ci prendano in giro, non c'hanno neanche i soldi per piangere Emiliano in Puglia. Questo è possibile. Grazie, buona serata a Emiliano. In effetti ho detto, ma questa cosa la fa perché si è parlato tutta l'estate di deportazione oppure perché ci crede veramente? Vabbè, la risposta a lui ha detto che ci crede, però io invece sono più d'accordo con l'ascoltatore che ha detto per secoli nessuno si è mai mosso per queste persone, adesso all'improvviso sembrerebbe di sì, anche se come dici tu Carlo c'è da essere contenti per loro, no? Se trovano i fondi per... Certo. Per darglieli. Ma staremo a vedere. Orchestra Via Padova. Oui. Fatevi sentire. Se no pensano che scherziamo, che non siete qua realmente. Sì, è negrita. Boia. Thank you. sao. Bailalo contigo. Con la guitarra, cajita y bongo. Bailalo contigo. Oye, ven, ven. Y bongo, dice, vaya, sigue la negrita. Di via Padova, grazie. In diretta qui per si può fare dagli studi, bellissimo. Via Monterosa, Milano. Ragazzi, allora come nascono queste canzoni così? Chi scrive i testi? Chi scrive le musiche? O nasce tutto così improvvisando? No, perché sembra tutto molto naturale. Beh, questi ultimi, questi brani che vi abbiamo fatto sentire dal vivo sono composizioni di Juan Carlos Vega. Il nostro amico peruviano che è qua presente. Sì, signor. Sì, signor. E nei primi due CD abbiamo molto preso dalla tradizione, cercando di arrangiare con dei linguaggi un pochettino più attuali, un po' afrobeat, funky, dei pezzi di matrice araba oppure mitteleuropei. O... Diciamo che stasera forse state un po' riadattando anche rispetto a quello che è la formazione. Beh, i vostri forza, brani, forza, perché avete forza. Normalmente siete 19, tanti strumenti, tante tonalità, e stasera è... Gli altri 14 sono fuori 14. In pullman che vi aspettano, giustamente, sono potuti entrare solamente in 5. Mentre invece con quest'ultimo album che è uscito, che si intitola Acqua, lo trovate, scusate faccio anche un po' di pubblicità, lo trovate alla COP Lombardia. Ah, però vicino al bancone del pesce. È vero? È sempre vicino al bancone del pesce perché si chiama Acqua? No, dipende dalle varie coppe. E questo l'ultimo album appunto è completamente di brani inediti di nostra composizione. Ma avete trovato casa? Perché so che c'era stata una polemica che non trovavate una vera e propria sede per questa associazione, che insomma fate tante cose in questo quartiere, vi date tanto da fare, però siete rimasti sì, senza siamo casa. Ancora stiamo provando adesso in una scuola, e però abbiamo due giorni a disposizione, se dobbiamo prendere delle cose nel fine settimana non possiamo prenderle, insomma abbiamo un po' bisogno di mettere radici, ecco. Siete ancora in cerca quindi di un luogo? Ma d'altra parte siamo itineranti, quindi è nella nostra indole. È così siete nomadi, ma però in cerca di una sede. Sì. bravo ha detto la verità. Questo l'orchestra merita una sede qua. Sì. A Milano facciamo un appello, insomma, dai, l'abbiamo fatto firmare, sì, sì. E consegnato nell'ufficio protocolli. Ormai si fanno così, no? Quanto tempo è passato da che avete depositato l'appello? È da poco o è da tanto? No, beh, da poco. No, comunque è una storia molto vecchia, ormai ci siamo deciso. Però in via Padova la volete la sede, non è che vi spostate in Monte Napoleone. No, basta che sta lì, ma anche via Le Monza va bene anche. Ah no, perché c'è una lotta di solito fra via Padova e via Le Monza, quindi è un appello ecumenico questo, direi, da uno di via Padova. Adesso è il momento di parlare con un altro grande musicista. Felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità e lasciarti il biglietto dentro al cassetto Ebbene sì, è lui, è Albano, buonasera. Confermo, buonasera. Confermo. Buonasera. Tutto ok, è il grido di battaglia. Io sono emozionato di parlare con Albano, lo dico così chiaramente anche per mia mamma e metto le mani avanti. Mettiamolo agli atti, Carlo Gabardini è emozionato, esatto, di parlare con Albano. Io è già la seconda o la terza volta, quindi sono un po' meno emozionato. Sei un abitué. Albano, come musicista, come cantante, sei entrato nel cuore, no, degli italiani, già nella memoria collettiva e non se ne parla nemmeno. Come produttore di vino ci stai provando e stai ottenendo... Alt. 1900, anzi faccio una domanda. Sei partito, quando ho iniziato a fare il vino? Sei partito prima come produttore di vino? Dai, dimmi. No, non lo so, non lo so. Sono totalmente impreparato, diccelo tu. Prima come contadino. Prima come poi, contadino. Ah sì, vedi. Siccome ho capito che facendo il mestiere del contadino non avrei mai potuto fare del buon vino, sì, allora ho deciso di fare il cantante per passione. E il cantante ha sovvenzionato il contadino e continua quasi a farlo con grandi successi. Quindi le prime bottiglie, perché fece una bella promessa a mio padre, sì, io me ne scappo dal sud ma sappi che ritornerò e farò una cantina e il primo vino avrà il tuo nome, cosa che ho mantenuto, e nel 1973, lo sottolineo, nacque mio figlio e nacque pure l'azienda vinicola. Ah, però, quindi in realtà fare il cantante è stato un lavoro di ripiego? È stato un lavoro importantissimo, non di ripiego, e grazie a quel mestiere ho potuto fare esattamente coronare tutti gli altri sogni. Però diciamo che, certo, ha iniziato prima come contadino, però sei diventato famoso come cantante, e adesso però ti stai tirando dietro una polemica, diciamolo, con Slow Food per il prezzo di una bottiglia di vino, 2 euro, allora, troppo poco. Tu mi insegni, tu che stai in una radio, che le campagne promozionali si fanno. Sì. E quando l'azienda Coop ha deciso di voler fare una campagna promozionale a loro spese, sì, io ho detto semplicemente di sì. Ah, quindi queste bottiglie si trovavano in vendita alla Coop? Sì, esattamente, presso la Coop. Che è lo stesso posto, tra l'altro, ricordiamo, dove si trova il disco dell'orchestra di Via Padova, Padova. Quindi di praticamente di tutto torna. È una trasmissione branded Coop, verremo puniti. No, non ci danno una lira. Se questi signori del Slow, sì, Food, ma non direi i signori, sarà soltanto un soggetto che avrà pane per i suoi denti e glielo farò provare. Perché è partita la querela? E beh, chiaro, hai scritto delle frasi molto infelici. Allora, fammi riepilogare solo un attimo, perché è giusto per gli ascoltatori, sì, che non, certo, sanno la notizia. A un certo punto sul suo sito Slow Food ha scritto una pagina, un post, un breve articolo nel quale dicevano: com'è possibile che queste bottiglie del vino di Albano costino solo 2 euro? Non è che chi ci lavora è in condizioni di non sicurezza, e velatamente si parlava del caporalato, eccetera, eccetera. Lì è nata... Addirittura questa mi è sfuggita. No, velatamente, perché si diceva che ci vadano di mezzo le... Beh, sono stati di una scorrettezza, e da un galantuomo come Carlo, sì, Pedrini, che lo conosco bene, è stato a casa mia, ha visto, siete tutto amici di più. Allora? Eravate amici? Siete amici? Eravamo amici, ma ti parlo di 10 anni fa, 12 anni fa, sì, è venuto qua, eccetera, una scorrettezza. No, non prendere alla lettera, non me la sarei, non prendere alla lettera il discorso del caporalato, lo dico io, perché lì si diceva, questo me lo ricordo bene, che non è che per caso ci va di mezzo la salute delle persone che ci lavorano. Questa era un po' l'accusa. Allora è un cretino totale, e se mi capitasse di fronte, intanto lo vorrei portare a fargli vedere com'è la mia cantina, come sono, dove stanno i miei vigneti, sì, e se venisse a darmi una mano qua non sarebbe niente sbagliato, perché abbiamo già iniziato a vendemmiare. E gli farei mangiare tutto quelle fiele che ha tirato fuori, non so a che titolo, proprio non lo immagino, se non per pizzico di invidia, che ne so. La campagna Coop sta andando alla grande e sono soddisfatto di questo. E poi io delle mie proprietà ne faccio quello che vogliono, non devo rispondere a nessuno, devo rispondere soltanto per la qualità, e la qualità c'è. Beh, la qualità è anche le leggi e le condizioni. Scritto? No, ma voglio dire, sì, dove sta scritto che un vino per essere importante deve forse costare 60-70 euro? Io col mio nome. No, però neanche 2 euro, vino, no. 2 euro, ma scusa, l'hai detto tu, perché era un sottocosto fatto, come fanno i supermercati spesso con tanti prodotti. Per promozione. Prodotti civetta, no? Che ci rimettono, ma attirano i clienti. Prodotto civetta. E siccome questi della Coop ci credono al mio prodotto, e il nome è quello che è, grazie a Dio, hanno voluto investire in questo settore, e ho detto di sì, perché no? Ma normalmente quanto costano invece i tuoi vini? Prezzo normale? I miei vini costano, guarda, vai fino ai, ai, c'è anche un vino di 18-20 euro, si chiama Platone, ma provalo e poi mi dirai se non ne vale 200. Vino rosso? 40 euro anche, sì, però l'ho bevuto per esempio in alcuni ristoranti, l'ho pagato anche 90. Sempre quello? Sempre quello. C'è il rincaro, sì, beh, il chiaro, doppio. No? Beh, 5 volte tanto direi, da 18 a 90. Il prezzo in normalità dei vini, la distribuzione è solo... C'è un direttore che mi sta dicendo una cosa, il direttore dei vini qua, è arrivato adesso. E mi sta dicendo, ma vabbè, tanto, ma ce la facciamo così, sì, dai, sì, sì. Che ma... se no non voglio annoiare i... Però, però cosa ne pensi a questo punto della perché Slow Food si è fatto un nome, no? Per la tutela, no, dico Slow Food, Carlo Petrini, ha detto pure, siamo conosciuti, siamo stati amici, se non sono fatti un nome, partecipano a tante iniziative per tutelare la produzione tipica, chi ci lavora, il prodotto di qualità. Mi apprezzo moltissimo per quello che hanno fatto e come lo hanno fatto. Però cos'è, una caduta? Perché in effetti forse stando io non a quello... vorrei accusare quelli di Slow Food, ma quello che lavora per Slow Food, se lavora per Slow Food. Ma quello che l'ha attaccata? Esattamente. Mi piacerebbe sapere nome e cognome. Non lo so, forse basta vedere chi ha scritto l'articolo, non so se c'era il nome forse. Guarda, io sono arrivato ieri sera dal... Resta un secondo, se puoi Albano, ancora un secondo, che abbiamo una piccolissima pausa pubblicitaria e rientriamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Ma perché ogni minuto dura un'eternità? Quando il sole tornerà. Vabbè, che gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire a questa voce qua? Albano, ti devo dire una cosa, qua in studio con noi stasera... Senti come cantava 50 anni fa quel ragazzo là, eh? Questo ragazzo. Ma non ti chiedo di fare l'acuto perché sennò dobbiamo abbassare il livello dell'audio perché lo rifaresti... Risparmiamo i microfoni. Tale quale. Qui in studio abbiamo l'orchestra di Via Padova, un'orchestra di molte, molte culture qua di Milano. Intanto grande stima a tutti nei tuoi confronti, grande musicista e anche uomo che lavora la terra. Hanno anche forse una proposta da farti? Ma ciao, buongiorno. Noi siccome buonasera, siccome anche noi siamo distribuiti dalla COP, volevamo proporre se era possibile l'abbinata CD più bottiglia. Più bottiglia. No, stiamo rasentando un livello. CD si chiama acqua, acqua. Comunque ha detto proponetela alla COP e poi vediamo che succede. Lui non è contrario. Per il momento siamo in fase di accordo. È un uomo che sperimenta. Però mi incuriosisce di nuovo perché questa cosa su Slow Food, perché sembrate, come dire, due mondi diversi, no? Perché in effetti tu hai detto sono snob, tu sei il nazionale popolare, loro sono snob, sono... come li giudichi? Ma ormai passiamo oltre il giudizio, diciamo che hanno lanciato una freccia avvelenata e... ma sai qual è stata la reazione? Che già il vino si vendeva da Dio. Dopo questa reazione qua, dopo questa sparata, dovrei avere un'altra azienda. Per produrre, per stare dietro agli ordini? È pazzesco, quindi tutto sommato devo ringraziare quelli della Coppa. Quindi tutto sommato è una buona notizia. Devo ringraziare quelli della Coppa e quelli del Slow Food. Certo. Ma sarà stata una scivolata, un errore? O come l'hai vissuto? Come un attacco proprio nei tuoi confronti? Quando ho letto il tutto, insomma, o meglio, tutto quello che mi hanno mandato lì, ero in Kazakistan, non credevo ai miei occhi. E invece ho dovuto proprio rendermi conto che nella vita niente è mai liscio. Ma le sfide a me piacciono. E siccome ne ho dovuto affrontare tantissime... Una in più, una in meno, non fa la differenza. Comunque, insomma, alla fine, nella tua azienda, il vino, diciamolo, ma in generale, bisogna produrlo così come tutti i prodotti dell'agricoltura, anche se i costi sono alti e i guadagni sono bassi con l'agricoltura, però rispettando chi ci lavora, la terra, questo è un messaggio che si deve dare, no? Anche pensando proprio, guarda, lì vicino a te c'è il caporalato, ci sono delle cose che non vanno bene. Ah, ci stanno, ma il male esiste dappertutto, da Montecitorio in poi. Addirittura in un luogo in cui non dovrebbe esserci, tipo la chiesa, ma la gente malata purtroppo fa parte ed esiste nella nostra società. L'importante è saperne stare lontani o, quando ti attaccano, saper rispondere per le rime e per le righe. Volevo dirti una cosa prima, ma visto che mi hai giustamente interrotto, mi è passata, ma quando appena arrivo potrà ricordare. Noi siamo in onda fino alle 20:30, se ti viene in mente ci puoi richiamare. Se era un altro appuntamento. Vabbè. Comunque, ringraziamo anche quelli di Slow Food perché tutto sommato mi hanno fatto un ulteriore e involontario favore. Ma un altro appuntamento qua in Italia o in Kazakistan? Allora, i prossimi appuntamenti saranno in Italia, poi c'è Tel Aviv, poi c'è Berlino ancora una volta e via di questo passo. Non si ferma mai, abbiamo letto anche di un successo incredibile a Berlino, volevamo la fare i complimenti. Berlino è stata la pazzia proprio, un pubblico che... Non volevo che non finisse mai quello spettacolo, è durato 2 ore e mezzo, ma secondo me è troppo poco, è stato fantastico. Grazie, ciao, grazie, buona serata. Grazie, buona grazie. Serata. Vi invito a provare il mio vino, quando volete sì. E dove volete, e poi ne parliamo. Anche perché costa okay. Pochissimo, giusto? Beh, no. Soprattutto in questo periodo che costa solo 2 euro, solo 2 euro, però solo alla Coppa. Ottimo, ed è un po' okay. Ciao. Grazie, grazie mille di questo momento favorevole. Ottimo. Grazie. Ciao. Allora, orchestra di Via Padova, preparatevi, cosa facciamo? Mettiamo su, scaldiamo i motori. Trrr. Intanto abbiamo la pausa? No, facciamo prima un paio di ascoltatori che li abbiamo trascurati. Sentiamo Stefano da Roma, quello che avevamo provato prima, Stefano, che non si sentiva? Stefano. Ecco, pronto? Pronto, ecco. Adesso si sente? Sì, buonasera, ciao. Ciao. Allora, volevo dirvi che vedo fortissimi tutti i segni della fine del mondo, perché Don Mazzi è assolutamente in piena fase psicotica, secondo me. Comunque non... Vabbè, ha 85 anni, forse... Vabbè, ho capito, ma è arrivato a dire che vede i segni della possessione demoniaca, non l'ha detto, l'ha lasciato intendere, ma... No, qua non l'ha detto, qui ha parlato di plagio, non so se volesse andare in quella direzione. Era possibile, insisteva molto su questo, su questo plagio. No, diciamo che per fortuna la responsabilità penale individuale, speriamo che insomma... Il magistrato ci dà per il meglio perché il bambino è in pericolo. Poi, come cittadino di Roma, devo dire che ho votato pure per Marino, però Roma sta crollando, ragazzi. Io vi invito a dire, secondo me sarebbe bene dimettersi e andare alle elezioni, magari lo rivoto pure, però deve trovare una nuova legittimazione. Ma perché si ricandida nel caso che ci sono nuove elezioni? Non lo so, però secondo me dovrebbe sicuramente, come posso dire, tentare di ritrovare una nuova legittimità, perché ormai non ce l'ha più. Direi che stanno facendo in modo che perlomeno non si ricandidi, così a sensazione. Non lo so, io non sono dentro i giochi della politica, però da cittadino vi devo dire che questa città sta crollando. Poi non lo so dove andiamo, non so qual era la cosa giusta da fare. Perché dici che sta crollando? Perché dici che sta crollando? Quant'è che cioè, vedi proprio dei capitato di venire a Roma? Vedi sì, le crepe intorno a te. Venite a Roma, vi prego, provate a camminare. Ma prima che mi devo venire a Roma, dimmelo tu. Ma io ci vengo spesso a Roma, non è che non è un disastro, perché io vivo qui da sempre e negli ultimi 2 anni è già con la precedente gestione era crollata verso il basso, ma i picchi verso il basso che stiamo toccando adesso non si sono mai visti. Ma perché? Per cosa? Fammi un esempio, Mario. Roma è nel totale, cioè dall'erba non tagliata all'immondizia per strada. Ok, due esempi, perfetto. Grazie totale, Mario, grazie. Di qualsiasi buona tempo. Serata, grazie. Andiamo con no, era Stefano tra l'altro, non era Mario, vero? Andiamo con Giovanni che chiama da Milano. Giovanni. Buonasera. Sempre in coda, come sempre. In che senso? No, niente, era un era un commento era sulle dire. Sue precedenti telefonate a Radio 24? Sì, noi non sappiamo. No, a che fare con il mio lavoro. Sì? Ah, perfetto. Ci racconti? Visto che si parlava prima di realizzare il proprio sogno e quindi per quanto riguarda il lavoro, diciamo, della propria vita. Sì. Io ho inventato il mio lavoro che mi dà tante soddisfazioni, quindi sono contento di questo. E qual è? E qual è però? Qual è? Perché così non lo sappiamo. E faccio le code per gli altri. Ah, ma non è l'unico, ne abbiamo parlato molto spesso qua, si può fare. Il codista. Addirittura abbiamo parlato di alcuni corsi. Ah, ma sei proprio tu. Sì, abbiamo già parlato con te, quindi. Cioè, scusa, ti abbiamo intervistato? Esatto. Ah, cioè, Giovanni, adesso ho capito tutto. Adesso ho capito. Mi fa piacere di ritrovarvi e salutarvi. Ma quindi ci confermi che a distanza di quanto tempo? Da quanto tempo hai cominciato a fare le code per gli altri? Un anno e mezzo più o meno. A un anno e mezzo di distanza. Questo è il tuo lavoro. È il tuo lavoro. Ti piace? Sì, esatto, il mio lavoro mi piace e chiaramente sto andando avanti e le code non mancano. Anzi, addirittura, se non sbaglio, l'ultima volta che ti abbiamo intervistato, ti intervistavamo perché avevi aperto dei corsi per altri codisti, perché avevi talmente tante richieste che non potevi più nemmeno esaudirle tutte da solo. Qual è giusto? Il segreto del codista? Esatto, tra l'altro sono andato avanti con l'evoluzione dei corsi per codisti su Skype. Quindi... In che senso i codisti su Skype? Cioè per fare... formo codisti sì, scusa, però Skype, non sembra un lavoro così difficile. Qual è il segreto del codista che tu insegni in questi corsi, se ce lo vuoi così, diciamo, anche solo accennare? Oltre alle doti caratteriali della calma, della pazienza, sono quelle anche di conoscere come rapportarsi con i vari uffici, con la pubblica amministrazione. Quindi conoscere la burocrazia è un lavoro che non si può improvvisare. Va bene. Ed è un ruolo di fiducia. Quanto guadagni facendo code? Intanto l'orchestra di Via Padova così sottolinea. Sta musicando il tuo intervento. Con un po' di ironia. Ci vivo. Ci vivi o ci vivacchi? Ci vivi? No, ci vivo. Ma uno stipendio. Dai, facci un ordine di idee. 1000 euro al mese. Uno stipendio da impiegato, insomma, un buon stipendio. Ora ti faccio la classica domanda da ascoltatore di Radio 24: ma le tasse le paghi? Sì, assolutamente. Emetto fattura, quindi è tutto in regola. Tutto registrato. Qua c'è un po' di mestizia sulla fattura, si è calata un po'. Veramente, emetti fattura? Era sottofondo sì, di Equitalia questo. La fattura per le prestazioni da codista, chiaramente. No, ma ora stai ridendo, no? Sul serio, emetti fattura? No, è vero. Va bene. È vero, sì. No, ne avevamo parlato anche l'altra volta. Sono perfetto. Tutti liberi professionisti che rilasciano fattura. Complimenti. Grazie, Giovanni. Grazie, Giovanni. Buona serata. A voi. Uno dei primi in Italia, forse al mondo, che fa questo lavoro. Il no, codista. Ma al mondo, secondo me, no. Se vai a guardare bene in giro nel mondo, qualcun altro l'avrà fatto senz'altro. Titoli della 7. Nuova strage di migranti nel Mediterraneo, 200 i morti nel naufragio di due barconi davanti a Zuara, città libica al confine con la Tunisia. 40 vittime sono state trovate nella stiva di un'imbarcazione, le altre sono state ripescate in mare. Le Nazioni Unite calcolano che 300.000 persone hanno attraversato il Mediterraneo nel 2015, morti e dispersi sono circa 2.500. Continuano i soccorsi della Guardia Costiera Italiana di centinaia di altri profughi. E l'emergenza corre anche sulle rotte del nord Europa, nel sud della Gran Bretagna. Ha fermato un camion italiano che trasportava 27 migranti e sulla rotta balcanica in Austria sono 71 migranti trovati morti soffocati sul Tir, tra loro anche 4 bambini. Una vicenda per la quale ci sono i primi 3 arresti. Migliaia di profughi intanto attraversano il confine tra Serbia e Ungheria. Il caso Roma, opposizioni scatenate contro la decisione del governo di affiancare il prefetto al sindaco. Brunetta invoca l'intervento del Colle e definisce mostruosa la soluzione. Il Movimento 5 Stelle in pressing, si voti, il PD teme le elezioni e la democrazia, ma l'inizio del giubileo è vicino e c'è l'urgenza di avviare i lavori, come nel caso di Expo ce la faremo, assicura Cantone, garante delle procedure anticorruzione. Salvatore Girone, il marò trattenuto in India, ha contratto la dengue, una tipica febbre virale tropicale, è ricoverato in uno degli ospedali di Nuova Delhi. Le condizioni di salute non sono gravi, precisano dal Ministero della Difesa, ma dall'Italia sono partiti 2 medici militari e i familiari del fuciliere tornano a chiedere il rimpatrio immediato. C'è un alone di mistero sulla morte di Monsignor Wesolowski, l'ex vescovo polacco e nunzio apostolico in Repubblica Dominicana. Fu accusato di pedofilia, ridotto allo stato laicale e doveva essere sottoposto a processo in Vaticano. È deceduto durante la notte davanti alla televisione. La Santa Sede parla di morte naturale, ma le autorità dispongono comunque l'autopsia. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Si distende. eccoci qua di nuovo, ben ritrovati cari ascoltatori, in studio con noi l'orchestra di Via Padova, che stiamo ascoltando in sottofondo in un brano che si chiama Acqua. E che per voi è abbastanza importante, anche perché si lega ad una data che volevate, certo, ricordare. Noi abbiamo questo impegno il 15 ottobre all'auditorium dell'Expo, siamo invitati appunto per questo concerto che per noi è molto importante, perché è per la giornata mondiale dell'alimentazione. Sarà presente Ban Ki-moon, saranno presenti molti esponenti di governi mondiali, perché il giorno dopo, il 16 ottobre, si firmerà la Carta di Milano, che sarebbe poi quel protocollo che è dovrebbe... quasi la chiusa di Expo, che è la chiusa di Expo, o lo scopo di Expo dovrebbe essere lo scopo, certo. Chi ve l'avrebbe detto, l'orchestra di Via Padova con Ban Ki-moon? Beh, molto bello, molto bello. Quindi questo è il 15. Questo è il 15. E poi, sì, e poi c'è un altro progetto, sì, invece, che è il progetto di questo video che, al quale volete chiamare a raccolta tutti, giusto? Ce lo ricordate? Sì, vorremmo fare appunto un video sul brano che avete mandato all'inizio della trasmissione, che è Il Banchetto degli Ingordi, che è un testo scritto da Gianluigi Carlone della band Osiris per noi, dove prendo un po' in giro tutti quelli che vogliono parlare della fame nel mondo, però avendo la pancia piena. Quindi... Certo, un grande classico. Quindi faremo questo videoclip il 20, il 19 e 20 di settembre, lo gireremo presso il MUDEC. E vorremmo invitare tutti quelli che vogliono venire a fare le comparse per cantare il coro insieme a noi, e l'appuntamento è per il 20 di settembre alle ore 11 del mattino. Del mattino, quindi, certo, 20 settembre, domenica, 11 del mattino al MUDEC per il video dell'orchestra di Via Padova. Eccoci qua, allora, cara orchestra di Via Padova, adesso vi trasporto tutti fuori dal vostro quartiere, fuori dalla vostra Milano, per andare in un'altra cittadina, San Donà di Piave, dove si sta sperimentando una... sono come le ronde, ma non sono ronde, anche se in questa cittadina i reati sono diminuiti da quando c'è il controllo di vicinato. E una formula non un po'... sono ronde. Esatto, un po' inquietante, ma che è molto interessante e promettente. Ne parliamo col sindaco di San Donà, buonasera. Buonasera. Buonasera sindaco. Andrea Cereser. Presente, Cereser. Cereser, è ovviamente l'accento, ho dovuto dire sbagliato per forza. Da, certo, quanto tempo state sperimentando questi gruppi, che adesso poi ci spiegherà bene di che cosa si tratta? Ma l'esperienza è partita pochi mesi fa, non abbiamo compiuto di fatto un anno, prendendo ad esempio una buona pratica che è già da diversi anni presente in Gran Bretagna, nei paesi anglosassoni, e che, sì, di fatto fa del cittadino normale il perno di questo sistema. Da una considerazione molto semplice, cioè che per quanto possiamo moltiplicare le forze dell'ordine, cosa auspicabile ma difficile di questi tempi, non saranno mai presenti in tutti i luoghi, in tutte come le vie, magari in tutte uno le case vorrebbe per sentirsi sicuro. Infatti, o il forse vostro... nemmeno auspicabile, nel senso che se funziona il sistema che state dicendo voi del controllo del vicinato, forse non serve nemmeno l'aumento delle forze dell'ordine. Esattamente, un po' perché responsabilizza i singoli cittadini e soprattutto perché va a rafforzare quei rapporti di relazioni, di comunità che in questi anni si sono, diciamo, allentati, sì, ma che invece costituiscono il modo per far sentire sicura una persona nel posto in cui abita. Ci racconta come funziona? Il vostro slogan, intanto, appunto, che riepiloga quello che stavate dicendo adesso, è: il miglior antifurto è il tuo vicino. È già questo, diciamo, è la presentazione. Come funzionano però poi? Beh, funziona da prima chiedendo disponibilità, sì, a delle persone di vivere la città tenendo gli occhi aperti e quindi arrivando a segnalare a un referente individuato dagli stessi gruppi di persone che possono raggruppare una via o più vie o una frazione o un quartiere, quindi individuando e segnalando a questo referente una serie di situazioni, diciamo, strane, e quindi il passaggio ripetuto di un'auto che non si conosce, piuttosto che invece la presenza di persone potenzialmente sospette in luoghi particolari, o di segni che si riportano, che ne so, sulle case oppure sui marciapiedi, che spesso, insomma, sono... un po' tutto, diciamo, dal graffito, esatto, alla presenza sospetta, eccetera. Ma come? Attraverso quale strumento? Social network? Un telefono, sì, oppure un semplice SMS, oppure altri social network, e questo, sì, referente ha il compito di valutare la segnalazione che viene fatta. Cioè, invece di fare la segnalazione alle forze dell'ordine, si fa la segnalazione a un referente. Sì, sono segnalazioni, diciamo, qualificate, per cui c'è un filtro e alla fine arrivano le forze dell'ordine, solo quelle che si, diciamo, però configurano. La come cosa degli di straordinaria è che in effetti avete fatto una specie di statistica e insomma, San Donà di Piave sono 40.000 abitanti, non è che sia proprio una cittadina piccolissima, e sono diminuiti i tentativi di come si dice, di furto proprio, no? Ah sì, certo, di furto, di illeciti, insomma di situazioni, diciamo, sgradevoli. È chiaro che trattandosi di una sperimentazione, parlando di poco meno di un anno, sì, non è ancora un dato significativo, però di fatto confrontato con un uguale periodo dell'anno precedente, c'è mostra una questa situazione. Proprio quello numeri che alla vorrebbe mano. Essere, sì. Esatto, quello che vorrebbe essere il passo in più da fare, tenendo conto che già ha avuto un grande successo, visto che abbiamo ad oggi coinvolto più di 1.000 abitanti, e la cosa è in continua crescita. Quello che vogliamo continuare a fare è di strutturare attraverso un accordo con la prefettura questo programma, perché oltre che coinvolgere la polizia locale del comune, possa anche considerare i carabinieri e tutte quelle forze che sono operative anche negli orari notturni. Ma 1.000 abitanti coinvolti non sono pochi. Tra l'altro la vostra è un'associazione nazionale, vero? Il controllo del vicinato. Diciamo che l'esperienza di San Donà fa riferimento a un'associazione nazionale. Però e non siete partitici, non ci sono partiti. Perché io so che un noto partito che su questi temi della sicurezza ci marcia abbastanza, comunque ci fa campagna elettorale e ci lavora su queste questioni qua, è interessata a mettere il cappello forse? Però voi non siete partitici? No, qui da noi no, tant'è che l'amministrazione ad esempio ha colori un po' diversi, ma al di là di questo si parte dalla considerazione che la sicurezza, il fatto di stare tranquilli nel posto in cui si abita, è un bisogno di tutti. Certo. Ma mi scusi, ma le volevo chiedere una cosa, secondo lei un sistema come questo funziona, che mi sembra molto buono in un centro piccolo, perché veramente uno magari nota delle piccole cose che poi sono gravi, ma secondo lei funziona anche in ambienti più grandi, quindi in una città come Milano, o si rischia che poi uno in realtà accusa il proprio vicino semplicemente in realtà perché gli parcheggia la macchina? Quelli di Via Padova fanno uno squillo di tromba quando vedono qualcosa che non va e avvertono subito il vicinato. Ecco, sì, esatto. Diciamo che il buon senso e l'equilibrio dei differenti è una dimensione importante per evitare sia l'allarmista, sia quello che vuole vendicarsi del vicino, esatto, sia quello che non ha altro da fare che non chiamare le forze dell'ordine, insomma. Per cui questo è un requisito tipo importante. Tipo ora, senza volere diventare offensivi, l'anziano che sta lì, che guarda, passa tutto il giorno e qualunque cosa che va un po' di traverso la stigmatizza. Non è indicato per avere un ruolo da referente, tant'è che c'è un'attività anche di formazione e di selezione di queste persone, per cui insomma ad oggi noi abbiamo avuto sicuramente buoni riscontri, grazie anche, devo dire, alla disponibilità di un cittadino che si è messo in gioco per primo e ha contagiato del suo entusiasmo anche tanti altri. E tra l'altro questo cittadino è qui davanti a me, per cui se volete potete anche fare una domanda direttamente a lui. No, io vi saluterei, sindaco, perché dobbiamo chiudere, abbiamo pochissimo tempo per chiudere la puntata di questa sera, quindi la ringrazio. Però ci risentiamo, perché io sono curiosissimo invece di parlare con il controllore. Ne parleremo ancora. Grazie, siamo buonasera. Sì, grazie mille, buona serata. Poi sono queste anche un po' le notizie, no? Che diamo nella versione di sabato e della domenica di Si può fare, quando ritorneremo dal 12 e dal 13 settembre. Tante di queste storie le risentirete e le ritroverete. Via Padova, vi vedo come dire, interessati a quello che abbiamo sentito. Beh, certo. Sì. Anche perché è una forma di controllo sociale già storicamente collaudata. Sì, no? Sì. Qua è un po' più formalizzata, forse. Magari, perché può darsi che anche la conformazione, saranno tante villette, tante case isolate a San Donà di Mio, immagino questo. In una città forse c'è un condominio, fa un fischio, ci si parla. Beh, quando c'erano comunque i quartieri, ho preso un po' di mazzate anche dal vicino di casa. Sì, allora, però in realtà poi il condominio non funziona tanto, perché poi sei a Milano, ti succede qualcosa e nessuno fa un fischio per niente. Abbiamo ancora il tempo per sentire qualche ascoltatore in chiusura. Walter da Bologna, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a tutti voi. Grazie. Buonasera. Allora, si parlava del lavoro dei sogni. Beh, io vado un po' in controtendenza, nel senso che io vorrei lasciare il mio lavoro da ufficio per fare il netturbino o operatore ecologico. E come mai? Ma in realtà io sono come posso dire, sono affezionato alla vecchia figura che c'era nei quartieri, un po' il netturbino di quartiere, come si quello proprio con la ramazza che passava. Ma più che la ramazza, sì, a me il carretto, sperimentare o avete presente il macchinino, quello che si monta su e butta l'acqua per, certo, per pulire le strade. È il sogno tutte quando di notte sei sotto il piumone che senti il macchinino e dici che bello, è il momento in cui passa l'ANSA. Ah sì, tu dormi, fai questi sogni a Milano, sì, assolutamente. Ecco, oppure poi tra l'altro hanno cambiato anche il nome della, sì, figura. Quello che si trova, che non so se in qualche comune esiste ancora, proprio dietro al camioncino che sta attento alla minima cosa. Quello che si attacca al palo, ah, al, sì, volo. Sì, quello che sta attaccato per un, ma bacio, certo. Esatto. Condivido i suoi sogni. Scusi, Walter, non per essere così, per entrare nel merito, ma lei che lavoro fa invece? Allora, io faccio il centralinista telefonico. Sì. Presso un ente, e quindi mi becco tutte le madonne del pubblico, nel senso che non gliene va bene mai. Allora abbiamo capito perché, ecco, fa il capo espiatorio in un'azienda, sì, invece preferirebbe essere in prima all'aria persona aperta, in trincea, a pulire le strade. Tra l'altro fa anche meno male al fisico stare seduto tutto il giorno, invece muoversi un po' Muoversi un po' va bene. Ma ci sono dei concorsi per diventare operatore ecologico nel turbino? Si può? Io lo farei molto volentieri, peccato che sono non vedente, quindi lo lascio nell'immaginario. Vabbè. Ma colpo di pezzo, scena. Questo pezzo di notizia è straordinario, perfetto. Sì, non so, rimaniamo appesi. Grazie Walter, buona, grazie, serata. Siamo arrivati alla fine di quest'estate, lo dovresti dire tu che io ci sono stato poco. Ed è bello concludere con la musica dell'orchestra di Via Padova, che ringrazio per essere stati qua nella, grazie, composizione di 5 su 19. Grazie a voi. Ci risentiremo sicuramente, va, nel weekend, di Si può fare. Vogliamo di nuovo avervi qua. Torniamo dal 12 e dal 13 settembre con l'edizione dalle 7.30 alle 10 del sabato, dalle 8.30 alle 11 del mattino. Carlo, è inutile che ridi perché hai finito di fare la festa al venerdì sera. Ma quindi sono confermato l'alba, anch'io. L'alba, torna l'alba. Ma sono confermato anch'io? Tutti confermati. Grazie ad Andrea Piana, autore insieme a noi di questo programma. Confermato anche lui. Cristian Goldoni, Leonardo Siligato, Grazia Gala, Riccardo Poli. Alcuni sono stati con noi tutta l'estate, quindi un grazie in particolare. Pietro Lacorte, regia. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia e ci hanno aiutato a fare il programma. E diamo il bentornato a Cruciani e Parenzo. Certo. Ciao a tutti. Ciao a tutti da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi. Ciao. Turno a Belter. Con Belter. Turno a Belter.